Refresh24. Buonasera da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. Per l'ultima puntata di questo ciclo di English 24, sono ormai tanti anni che facciamo questa trasmissione, non vi abbandoniamo, andiamo in vacanza solo per poche settimane, vi terremo compagnia con le migliori puntate andate in onda quest'anno, poi ritorneremo insieme per la nuova stagione. Un po' come fa il cinema, che anche d'estate, insomma, le uscite si rallentano, qualcosa di bello però ci sarà da vedere. Allora abbiamo approfittato di quest'ultima puntata per segnalarvi un film, io l'ho amato tantissimo, uscirà il 26 di agosto, quindi bisogna appuntarsi la data. Si intitola This is England ed è un film che abbiamo visto nel 2006 in pochissimi, perché è stato al Festival del Cinema di Roma, l'allora Festa del Cinema di Roma, ha vinto il premio speciale della giuria, non è mai uscito. Sono passati 5 anni e finalmente questo film This is England esce. È la storia di un ragazzino che ha 12 anni nel 1983, orfano di padre, vive in un paesino e si avvicina alla cultura skinhead e ci dà una visione degli anni 80 e di questo mondo inglese molto particolare. Noi abbiamo recuperato questa intervista che ha concesso all'epoca il regista Shane Meadows, che ha raccontato un po' come è nato questo film e se si è ispirato alla sua infanzia in Inghilterra. I mean, initially I'd sort of, I don't think I'd ever really contemplated or considered making a film about this period. Why I don't know, because it's obviously so visceral. When I started to look at the 80s, and not only about me being a skinhead, but the amount of different sort of youth packs, cults that were going on at the time. I look, you know, look around now, any shopping centre, and it's boring. You're like, you can just about spot a skateboard kid, and you can spot a chav, but there isn't the same separation amongst kids anymore. It's all been a bit, you know, a bit sanitised and sterilised, and you sort of look back at where you were, and right from the sort of real super geeks that were wearing Dealey Boppers, pink, one pink sock, one green sock, through your new romantics, rockers, you know, gothics, skinheads, punk still around, mod second generation, that was just, you know. È interessantissimo questo film perché mette in scena un mondo di cui si conosce troppo poco, sappiamo tutti i problemi che riguardano questo universo, ma poco delle ragioni che circondano alcuni comportamenti, ed è sempre interessante andare a vedere dove nascono le situazioni, ed è quello che fa This is England. Però Shane Meadows all'inizio non era proprio dell'idea, non riteneva davvero possibile fare un film su quel periodo che l'ha toccato così profondamente. Sì, addirittura sembra quasi che l'avesse escluso, no? Perché usa questo intercalare I mean, I sort of, e poi dice I don't think I had ever contemplated making a film. Quindi questa forma che ci dà l'idea che per un lunghissimo periodo di tempo non aveva nemmeno contemplato, pensato, così accarezzato, potremmo dire in italiano, l'idea di fare un film su quel periodo della sua vita, che peraltro poi, come vedremo, è stato molto importante. Allora si guardava indietro, guardava gli 80s, quindi agli anni 80, dei periodi in cui i giovani si comportavano in maniera un po' diversa rispetto a quello che succede oggi. Sì, e qui c'è un'espressione che in italiano non usiamo così, ed è pack, che è gruppo, ma nel senso di, in senso non negativo di gang o di gruppo violento, semplicemente un gruppo di ragazzi, quindi questi youth packs, questi gruppi in cui si suddividevano i giovani. E l'Inghilterra sicuramente negli anni 80, io ero piccola però me lo ricordo, era caratterizzata da questi gruppi, tra cui forse gli skinhead restano i più famosi, anche se ne abbiamo un'immagine probabilmente diversa da quello che erano veramente, però poi ce n'erano anche tanti altri, quindi in questi 80s, lo ricordiamo sempre, in inglese si dice gli anni 80, non si dice come facciamo noi, ma si mette un 80 e poi un apostrofo e si attacca la S e poi si legge 80s, e naturalmente si può fare con 70s, 60s, 50s, 20s, roaring 20s, sono i ruggenti anni 20. E Shane Meadows continua a spiegarci, effettivamente è un discorso molto complesso perché noi abbiamo un'unica idea degli skinheads, è un fenomeno interessante da rivedere in questo This is England. And then in a place like Uttoxeter, where there isn't enough, you know, enough people to be able to have, you know, one, you know, like where the skinheads were all mixed with the rockers and the rock, you know, everyone was all together at the discos, and so you realised it was a really incredible time when people wore their hearts on their sleeves. And so for me to have this period in my own past, it's not until you become, I suppose, an adult that you start to become if you like, it, well, you do look back at your life and you look back and realise that there's things that maybe you didn't realise had had an impact on you. And that was the first thing I'd ever really got, wanted to become a part of. And I was very much like Sean in the film, wearing a jumper with reindeers on, and you know, I was a, not a geek, but I was a bit of a nobody. And so going to school, you get shoved in the dinner queue, you know, you've got shaggy hair and all of that. And then the transformation to sort of seeing these skinheads one day in the shopping centre, you know, walking through the precinct and thinking, you know, they look like, almost like, you know, Marines or something to me. They were unbelievable. They're so smart, yet, you know, so aggressive. So small yet so aggressive. Capiremo poi cosa pensava di questi skinheads che lui ha incontrato quando era un ragazzino, possiamo dire, insomma, un po' sfigato, un po' bruttino. E questa è poi la storia di This Is England, di questo ragazzino orfano che si sente solo e viene adottato da questo gruppo effettivamente un po' strano. Questa è un po' anche la sua infanzia nel paesino inglese in cui lui stesso è nato. Che poi lui ci spiega che questo paese, vabbè, questo paese che ha questo nome stranissimo, che è Uttoxeter, era talmente piccolo che non c'era, there's not enough people, non c'erano abbastanza persone, abbastanza youth packs, o comunque questi youth packs non erano abbastanza numerosi per avere ciascuno la sua discoteca, ciascuno il suo bar, quindi erano tutti, they would mix with the rockers, gli skinheads with the rockers, una cosa che probabilmente ci spiegherà poi lui anche dopo, nelle grandi città non succedeva perché lì c'era spazio per avere ognuno i suoi punti di riferimento, invece loro all together in the discos, quindi queste discoteche che anche lì, forse in altre città c'era la discoteca per gli skinheads, per i punksters, per i super geeks se andavano in discoteca, invece a Uttoxeter tutti insieme. He looks back e cerca di capire, si rende conto di quello che ha avuto un grosso impatto su di lui. Probabilmente non pensava, come diceva, di fare realmente un film sulla sua storia, ma è innegabile che tutto questo lo abbia colpito nel profondo. E qui c'è questa parola realize, che io spessissimo ormai sento tradotta con e ho realizzato che, ma in italiano non dovremmo dire ho realizzato che, noi dovremmo dire mi sono reso conto che. Realize invece appunto è, se lo vogliamo tradurre pigramente, realizzato, ci capiamo, però la traduzione giusta in italiano è I looked back and realized, mi sono guardato indietro e mi sono reso conto che questo periodo had an impact on me, che aveva avuto un discreto impatto, questo perché lui non è più uno skinhead, c'è chi lo resta per tutta la vita, lui no, è stato un periodo, ma è un periodo importante. Ah sì, c'è stato questo periodo di transformation, perché lui era un geek, appunto era questo ragazzino un po' forse in America avrebbe detto un loser, un perdente, e si è trovato con questi ragazzi che alla fine lo affascinavano. Sì, ha questa immagine, ci regala questa immagine che era in un shopping center e li vede walking through the precinct, cioè entrare, e to him they looked like marines, sembravano dei marine, ecco, che era probabilmente il massimo dell'uomo rispettato o rispettabile del ragazzo, e quindi erano so small, perché probabilmente avevano la sua stessa età, quindi di dimensioni erano piccoli ma so aggressive, però così, e lui che si sentiva a bit of nobody, un po' un nessuno, un pochino un nessuno potremmo tradurre, e questa cosa di invece magari mettersi in questi panni di finto marine lo ha subito affascinato. Infatti questo film è molto dolce ma anche molto ruvido, io mi ricordo di aver pianto tantissimo quando l'ho visto, peraltro ha delle musiche italiane perché le musiche sono state scritte da Ludovico Einaudi. In questo film si racconta proprio questa cosa che se non si conosce è assolutamente inspiegabile, perché possono essere affascinanti gli skinheads, ma non dal punto di vista della violenza, delle ideologie pericolose, no, ce lo spiega proprio Shane Meadows. I think there was especially in places like Uttoxeter and smaller places, maybe in London and some of the bigger cities around the country, being a skinhead maybe was much more of a fashion thing, I don't know, you know, wasn't my experience, but being a skinhead in a place like Uttoxeter was the only way almost that you could actually be something, you know, and same with the fashion for a lot of people, you know, but for me, I was being told at school that if I didn't get, you know, 8 O levels and I didn't get 3 A levels, that I was going to be sweeping streets, and the only place to work in Uttoxeter at the time was either at JCB in a factory or at the biscuit factory, you know, and so, and there was no jobs anyway, 3.5 million people unemployed, so you've got a lot of youth spilling out onto the street, and being a skinhead was one of these where you could sort of say, actually, we don't want to be part of that, we don't care there's no jobs, we're going to give you hell, we're going to cause trouble, we're going to be a pain in the arse. It's almost like the one way that you can actually fight back. Ovviamente nel film poi ne succederanno di tutti i colori e non saranno tutte cose belle, è un po' inevitabile nella vita e poi è inevitabile soprattutto se siamo così un po' ai margini. Lui lo diceva, io mi sentivo un po' nessuno e invece a contatto con queste persone, soprattutto in questo suo paesino inglese, le cose potevano cambiare. Sì, dice probabilmente in London, anche se quelli gli anni 80 erano sicuramente gli anni in cui c'era gente molto di successo e gente comunque ai margini, però dice in London maybe it was much more refreshing, forse c'era un'area più fresca, più di speranza, da noi no. E quindi being a skinhead was the only way that you could actually be something, era l'unico modo per essere qualcosa, non qualcuno, ma qualcosa, cioè avere in qualche modo un'identità, anche perché a lui venivano dette, venivano prospettati degli scenari catastrofici. Ebbene sì, lui non era un granché a scuola, non c'era tanto lavoro fuori e quindi era l'unico modo per riuscire a sopportare l'idea. Lui dice, vabbè, io pensavo che sarei finito a fare lo spazzino in pratica. Sì, perché diceva, if I was not getting straight A's in Inghilterra, ancora adesso non ci sono i voti come da noi da 1 a 10, ma c'è A, B, C, D e poi E è il minimo, poi F che sta per failure è bocciato, quindi straight A's noi diremmo tutti 10, quindi se non prendevi tutti 10 e non era chiaramente il suo caso, I was gonna be sweeping streets, to sweep vuol dire scopare le strade, quindi appunto fare lo spazzino. E allora loro dicevano, a noi non ce ne frega niente perché noi invece ci sentiamo forti in un altro modo. Un po' l'idea molto infantile era, we don't care, there's no jobs, non ce ne importa che non ci sia lavoro, we're gonna give you hell, vi daremo l'inferno, naturalmente in modo figurato, quindi vi daremo molto fastidio, vi causeremo un sacco di, we're gonna cause trouble, creeremo dei problemi, we're gonna be a pain in the ass, saremo un pain in the ass, non so se si può tradurre. L'abbiamo tradotto in maniera... una scocciatura posteriore, ecco. It's the only way we're going to fight back. To fight, naturalmente, combattere, quindi per combattere contro di voi, ma noi potremmo semplicemente dire per reagire. Ecco, è l'unico modo che abbiamo per reagire. E si capisce già da tutto questo quanto possa essere affascinante la storia di This is England, che uscirà il 26 agosto. Ne abbiamo parlato questa sera perché è l'ultima puntata per questo ciclo di English 24. Io ringrazio Carmelo Lauricella in regia, da Marta Cagnola, Giulia Crivelli. L'augurio di una buona serata e ci risentiamo sabato prossimo con il meglio della nostra trasmissione.